siete proprio irresistibile, la posso dire ragazzi, sto parlando dai Corrs e poi anche sto parlando di voi ascoltatori di Radio Tour. Good morning everybody, anzi non posso dire good morning perché quello è il programma di Antonio e Leo Crema, devo dire baci a tutti quanti, io sono Fergal Kavanagh, questo lunedì mattina ragazzi veramente è finito, sono finite le feste, però meno male che Radio Tour è sempre con voi. E voi che volete fare quando le cose, le persone sono irresistibili? Le volete dare un bel bacio? Allora questo è il programma per voi. Radio Tour, the moving station. Presents Kisses in Tour. Baci in Tour. Baci in Tour, la sapete ormai che cos'è il Baci in Tour? Noi andiamo in giro a presentarvi, a consegnare baci a quelli che voi tenete più cari. Voi ci chiamate alle 081 790 14 11, e il nostro Lara 007 e Umbi 008 si mettono in tourello e vanno in giro per Napoli e per provincia e anche oltre a consegnare, a provare a consegnare con molto successo spesso questi bel baci. Infatti se vedete il tourello che già è in giro per Napoli, fate un bel pip pip con clacson, salutili perché pure per loro è lunedì mattina, quindi sorridiamo tutti quanti sopra. E dobbiamo ringraziare per Baci in Tour le dediche consegnate sull'uscio di casa, ringraziamo il nostro sponsor, il gruppo Mirando Automobili, il nuovo modo di acquistare e vivere l'auto. Baci in Tour, tour. Che fa proprio l'ospite in questo pezzo di Wycliffe John ex-Fugees, 911, proprio un bellissimo brano questo, e 911 sarebbe il numero per telefonare alla polizia negli Stati Uniti se stavate a chiedere ma che cos'è questo 911. Ragazzi, il nostro GSM Box 0348 24 38 888. Voglio sentire tutti i messaggi, cioè voglio che voi me li scrivete in modo che vi saluto questo lunedì mattina. Voglio salutare a Patrizia che sta lavorando adesso al Fard, al Cheese di Nola, e quindi buon lunedì a te Patrizia. Doesn't it feel good? Senza fermare? Vabbè, se siete ragazze magari è normale. E perché le dico? Perché gli scientists, cioè quello che fanno tutte queste ricerche eccetera, hanno scoperto che le ragazze sono proprio nate con la capacità di parlare molto meglio che i ragazzi. Infatti vogliono prendere il DNA di mille e mille gemelli per isolare i genes, diciamo, che le fa chiacchierare, parlare così. Ma che ricerca, ma l'avremmo mai pensato? Boh. Robbie Williams. Questo sempre mi fa ricordare a I Will Survive di Gloria Gaynor, un proprio bellissimo brano. Comunque Robbie Williams is the man of the moment. Che successo che sta avendo con questo album, e continuo ad uscire i pezzi, i singoli da questo, e li regalo sempre un bel successo. Bravo Robbie Williams. E magari un giorno le possiamo mandare un bel bacio da Radio in Tour per augurarlo il meglio. E infatti eccoci arrivati al momento di Baci in Tour, la dedica consegnata sull'uscio di casa. Vediamo se Lara è in linea. Lara, buongiorno, ci sei? Buongiorno Ferga. Buongiorno. Buona lunedì mattina. Eh beh, veramente dura riprendere il lunedì mattina. Poi, come sapete, io questo fine settimana ho fatto le consegne, da brava befana che sono. Ve lo sono detta da sola, visto che in tanti mi hanno chiamato befana. E adesso sono veramente, veramente stanca. Poi la scopa tutta la notte, mamma mia, guarda, è stato veramente tremendo. Comunque sei bravissimo a pattinare, non l'avrei mai immaginato. Hai sei visto? Bravissima, complimenti. Grazie Fergal, adesso è il momento del primo bacio in tour. Ci troviamo a Napoli, a via Milano. Napoli, a via Milano, giusto Carmen? Sì. E Carmen, l'avete appena sentita, è la destinataria di questo primo messaggio. Una bella biondina con gli occhi verdi, come stai? Bene, grazie. Ascolta Carmen, tu in qualche modo ti aspettavi qualcosa di speciale oggi? No. Assolutamente, ma c'è qualche ricorrenza in questi giorni che ti riguarda? Sì. Che cosa? Sono 20 anni che sono insieme a mio marito. Ecco, l'applauso è tutto per Carmen, perché solitamente per sopportare per 20 anni un uomo ce ne vuole, giusto? Sì, abbastanza. È insopportabile tuo marito? No, no. Ah, ecco. Vediamo chi ti ha scritto questo messaggio, se è proprio lui o magari è l'amante di Carmen, chi può dirlo? Sono passati 20 anni, ma è sempre come se fosse il primo giorno. Siamo. Carmen, io credo che non ci siano dubbi. Di chi si tratta? Mio marito Umberto. Senti un po', qual è il segreto per far durare il matrimonio? Io lo chiedo a tutte le coppie che, insomma, sembrano così stalde da moltissimi, moltissimi anni. Molta pazienza. Troppa. Lui con te? Altrettanto. Vabbè, insomma, armatevi di santa pazienza, come si suol dire, e le vostre unioni dureranno. Questo è il messaggio, no, Carmen? Sì, sì. Benissimo, grazie mille, questo maxi messaggio è per te. Io invece ho un mini messaggio per gli ascoltatori. Gruppo Miranda Automobili aspetta tutti i suoi clienti il 13 gennaio alle 16.30 al Ford Village di Via Scarfoglio, Agnano, Napoli, per un'altra grande festa con Radio Tour. 25.000 metri quadri di esposizione, baby parking ed area party. Gruppo Miranda Automobili, il nuovo modo di acquistare e vivere l'auto. Bene, ragazzi, ci sentiamo tra meno di un'ora. See you later, bye! See you later, Laura, grazie tantissimo. E che bel consegno questo, proprio dopo 20 anni l'amore è sempre vivo dentro questo matrimonio. Auguri a voi Umberto e Carmen. E se voi volete prendere il vostro bacio consegnato gratuitamente in diretta su Luce di Casa, basta telefonarci alle 081 790 1411. Baci in Tour, missione compiuta. Il ritorno di Sade dopo tanto tanto tempo, chissà se può replicare il successo dell'album Diamond Life da 87 se non sbaglio. Comunque 2001 e Sade è sempre attivo, che bello. Allora, messaggio sul GSM Box 0348 24 38 888. Ciao frescone, questo sono io immagino, ma cos'è un frescone? Sono una delle ragazze di sabato sera da Ischia, quello Riccia Morra, mi chiamo Mary. Ah, ciao Mary, ma quando vieni ad Ischia? Ischia, Fiore, quando andiamo ad Ischia? Allora ci vediamo la settimana prossima. Saluta Luca e Lino for me, ti aspetto. I'll see you next week allora. E poi quando tu vieni a Napoli c'è un appuntamento per te. Radio Tour, The Moving Station, la radio dei grandi eventi, dei grandi eventi. Radio Tour, la radio dei grandi eventi, vi segnala che è freddo, ragazzi. Tutti nudi, con Biagio Izzo, Patrizio Rispo, Mario Porfito, Mimo Esposito, Paolo Colletta e Gigio Morra. Al Teatro Celea di Napoli, Radio Tour c'è. It's with Il Rimedio, e questo mi piace proprio. I primi, prima riga dice a promise is a promise, come si dice. È un promesso, è un promesso, come si dice. È un promesso, sì, lo è. È il nostro promesso di portarvi la musica migliore del momento. Questo è Radio Tour, The Moving Station. My name is Virgil Governor, c'è Fiore alla regia. E se noi non stiamo soddisfacendo le vostre richieste, i vostri bisogni, cioè se il nostro promesso non è così bello, diciamo, voi dovete ribellare, dovete telefonarci, dovete dire oh, il Just For You, voglio che mi fate sentire questo bel pezzo. Quale bel pezzo? Decidete voi. E come fate? Telefonandoci 081 790 1411, che dopo Jennifer Lopez arriva il Just For You. My love don't cost a thing. Connessione telefonica. Request one. Ah, ragazzi, ragazzi, ho provato proprio il corso per me, per imparare a fare radio, semplicemente per migliorarti. Chiamalo 081 787 98 56. È il numero di Radio Art, lo stage di dizione e comunicazione radiofonica di AG Studio, Radio Tour e Roberto Barone. 081 787 98 56. E adesso su Radio Tour per Francesco, Alan Brax with Running. Coffee degli Old Saints, il caffè nero, l'espresso magari. Questo è proprio quello che di lunedì mattina è essenziale per darci un calcio indietro per iniziare la settimana, anzi iniziare l'anno, devo dire, perché siamo tutti quanti stati un po' più liberi la settimana scorsa e adesso ci tocca affaticare. Va bene, tranquillo, perché c'è il sole a Napoli, quindi possiamo sorridere, possiamo sorridere. È troppo bella questa canzone, mi ricorda la birria belga, ci è scritta Manuela. A proposito di YMCA, grazie tantissimo, il nostro macchina del tempo ti ricorda dai bei momenti, e questo è Radio Tour che vi vuole sempre ricordare i bei momenti e farvi sorridere. Ragazzi, è arrivato il momento di Non è urgente. Si sento mai meglio. C'era una volta una canzone dei Dream che si chiamava Things Can Only Get Better, se vi ricordate, e questa era una cosa che Tony Blair aveva adottato per il suo lezione per dire le cose miglioranno in Inghilterra di sicuro. E il fatto è che adesso c'è un sondaggio e tutti gli inglesi sentono più inglesi che britannici. Bello questo fatto. Bello, ma chi ce ne frega, io sono irlandese. Ecco, questa notizia se ne va. Questi sono i Dream. the best thing, tu sei la cosa migliore. Il GSM Box 0348 2438 888. Hi Fergal, how are you? I'm Rosanna. And as dice in inglese, però vi le traduco, sono molto contento di parlare con te. Sei molto dolce. Wow, grazie Rosanna, mille baci. Muah, e scusi per l'inglese, ti voglio bene. No, tu inglese è perfetto. Solo che Anne si scrive con la A, non la E, però non ne parliamo. Ottimo Rosanna, thank you very much. E voglio che voi mi scrivete quel numero 0348 2438 888. You're listening to Baci in Tour on Radio Tour. Ed eccoci arrivati al momento di Baci in Tour, la dedica consegnata sull'uscio di casa. Se volete prendere il vostro bacio consegnato gratuitamente in diretta sull'uscio di casa, 081 790 14 11. Baci in Tour, solo su Radio Tour. In tour al Ford Village con Roberto Barone. Il gruppo Mirando Automobili invita tutti i suoi clienti sabato 13 gennaio dalle 16:30 in poi per la presentazione delle nuove Ford Mondeo. Gruppo Mirando Automobili e Ford Village, il nuovo modo di acquistare e vivere l'auto. Radio Tour in Tour. Tour. Chiama 081 790 14 11. SBOT. In tour, e voi state facendo qualcosa che la mamma non volete che fate, cioè voglio dire, state diventando DJ o state per diventare cantante o qualcosa, e la mamma vi sta dicendo dovete studiare un po' di più, dovete faticare per fare la laurea eccetera. È stato proprio così pure con Cesare Cremonini e la sua madre, e infatti lei non ha creduto nell'Unopop finché loro hanno vinto il Festival Bar l'anno scorso. E infatti lui le ha telefonato e lei ha detto: ma quando vuoi venire di perdere questo tempo? Lui ha detto: ma abbiamo almeno vinto questo Festival Bar. E la mamma è ceduta e si è messa a piangere con la felicità. Che bella storia ragazzi. Oh, il Just For You arriva dopo Madonna, quindi telefonateci adesso 081 790 14 11 per raccontarci che volete sentire. Don't Tell Me, vi ricordate sicuramente che appena prima di Natale si è sposata Madonna con Guy Ritchie su in Scozia, e Guy Ritchie ha portato quel kilt o il gonolino, come dite voi in italiano, è un kilt, e poi sta diventando molto trendy infatti il kilt adesso, perché ci sono i designer sopra in Scozia che vogliono che i giovani riprendano a portarlo questo gonolino tradizionale. Infatti ha disegnato proprio uno con un tasco speciale per portare il cellulare, quindi non c'è più problema se volete portare il gonolino. Però mi immagino in Scozia, ma in gennaio soprattutto, è un po' freschettino ancora, eh? Ehi ragazzi, se quando torni a casa vuoi comodità, comfort, colore e calore, il consiglio di Radio Tour è Divanomania. Divanomania, il divano che desiderei e la qualità che cerchi con il prezzo comodo. Divanomania in via Boccace 36 a Casoria, telefono 081 540 41 93. E adesso per Paolo, il mio spaglio più grande di Lauro Pasini. Sto leggendo un po' di notizie qua, non so se è vecchio o no perché l'ho trovato su un dischetto qua, però proprio una storia bellissima che è successa da una ragazza a Nuova Zelanda. Poverina Lisa Reed era cieca da 10 anni a causa di una grave malattia al cervello, però una mattina si è chinata a baciare il suo cane che le fa da guida, e ha battuto la testa contro un tavolino. Che gli è successo? La mattina dopo si è risvegliato e si è accorta di vedere regolarmente. Bellissimo questo, infatti i medici hanno confermato che ha riacquistato l'80% della vista all'occhio sinistro, e però non sanno spiegare perché è successa questa cosa. Quindi auguri a Lisa a Nuova Zelanda, non credo che ci stia ascoltando, comunque auguri a te e buone 2001, buone 2001 pure a tutti i nostri ascoltatori on Radio Tour The Moving Station. This is Mi Lasciateci Stare di Irena La Medica on Baci in Tour. Moving Station Baci in Tour. Mi piace proprio questo messaggio che mi ha mandato Lia. Grazie Lia, dice: hai una voce magnifica, ma soprattutto sei bravissimo. Wow, hanno parlato gli ascoltatori, le ascoltatrici di Radio Tour. Thank you Lia, e thank you anche per il bacione a tutti quelli di Radio Tour, e una forte a te che ci ha mandato. Ciao e pure a te, a presto. Adesso per voi il Tour News con Cristiano Barone. Tour News. good feeling. Questo è DJ Flex e a proposito di sentirci tutto bene, ragazzi, ragazzi, ragazzi, abbiamo vinto ieri fuori casa contro la Lazio alla grande. Forza Napoli. E infatti Eriksson della Lazio è un po' in guai per questo fatto. E come sappiamo tutti quanti va pure a gestire le squadre inglese, il nazionale. Però questa squadra dell'Inghilterra forse non esisterà più, perché il segretario degli interni Jack Straw in Inghilterra ha proposto di nominare una squadra di calcio britannica per rappresentante i quattro paesi degli UK, cioè non ci sarebbe più l'Inghilterra, la Scozia, la Galles e l'Irlanda del Nord come squadra di calcio, sarebbe tutto le squadre della Gran Bretagna, una sola, che a me sembra un'ottima idea, però è stato contestato dall'autorità calcettistica che dicono che non è un modo di fortificare il sentimento britannico, boh, non lo so. Comunque eccoci arrivati al momento di Baci in Tour, vediamo se c'è la nostra Lara in linea. Strano. Allora voglio salutare a Paolina, povera Paolina, non si sente bene, you're still ill, I'm sorry to hear that, get well soon, e grazie per il tuo messaggio al 0348 24 38 888. E poi anche Lia ci ha riscritto, ha detto: più che magnifica, hai una voce sensualissima, ancora un bacione fortissimo, grazie Lia. E se vuoi sentire la mia voce fuori dalla radio, allora attenzione a questo appuntamento. Radio Tour, the moving station, la radio dei grandi eventi. Radio Tour, la radio dei grandi eventi, vi segnala che freddo, ragazzi, tutto nudi, tutti nudi, con Biagio Izzo, Patrizio Rispo, Mario Porfito, Mimo Esposito, Paolo Coletta e Gigio Morra. Al Teatro Celea di Napoli, Radio Tour c'è. Radio Tour, Radio Tour, la radio di... Ah, comunque è bella questo. Ladies and gentlemen, area di servizio. E grazie a Radio Tour Enrico potrà andare gratis al Cerco Lidia Togni a Fuori Grotta a Napoli e dal Cinema San Marco in Corso Trieste a Caserta, che ti aspetta con Michelle Pfeiffer ed Harrison Ford in La Verità Nascosta. Per informazioni sugli orari degli spettacoli 0823 44 89 59. E adesso per Enrico c'è anche la sua canzone Marina Ray e Inaspettatamente. Aria di servizio. E l'hanno avuto comunque. Ragazzi, non lo so quanti di voi ci avete un giardino, un prato davanti a casa, e Napoli è un po' difficile, però a casa in Irlanda ce ne sono parecchi, parecchi. Quindi mi interessava molto leggere questa notizia qua, che il prato verde potrebbe essere finito, diciamo, i suoi giorni sono limitati, perché i designers hanno proposto di fare con tipo di prato rosso, marrone o viola per farli più belli, che non devi nemmeno tagliare le cose. E c'è anche il progetto di fare un prato luminoso, ma che roba proprio. With a breather. E poi mi ha fatto ridere Fiore lì, perché quando ho dato quel notizia sui i prati di vari colori, lui ha detto: oh, così non puoi dire che il prato del vicino è più verde del tuo. Bravo Fiore. Allora ragazzi, è il tempo di salutarci. Voglio salutare a Carmido Battipaglia, che ha detto: non vi sto ascoltando perché sto lavorando, quindi non lo so perché l'ha salutato. Comunque ciao intanto. E ragazzi, è l'ora di andare. Ringraziamo ovviamente il nostro sponsor, il gruppo Miranda Automobili, il nuovo modo di acquistare e vivere l'auto. Io sono Fergal Kavna, grazie a tutti voi che ci avete seguito, grazie a Fiore che ha curato la regia, e ci sentiamo alla prossima. Tour News con Cristiano Barone.